voglio tornare a correre. Porterò i tuoi silenzi in tutti i viali. Se guarirò, voglio tornare a credere. Getterò al vento giorni tutti uguali. E salverò la tua bandana sulla testa. Iserò vele candidi sorrisi. Combatterò, mi getterò nella tempesta. Urlerò il nome tuo in tutti i mari. Se guarirò, voglio tornare a vivere. Comprerò una chitarra a rossi stivali e suonerò sotto murales di graffiti con la tua voce rotta nei miei incisi. E ballerò intere notti e luce e specchi portano via il pallore dei tuoi sguardi. Mi getterò a capofitto e quei tiranti risucchieranno i tuoi respiri stanchi. Voglio tornare a correre e non ritornare più. Voglio tornare a credere, non sprofondare giù. Se guarirò, giuro non taglio più i capelli. Toglierò le cornici in tutti i quadri. E strapperò lunghe bugie dai ceri sciolti, cancello a tutti i libri bui finali. Lavorerò, amerò tutti i santi giorni, voglio sposarmi, avere tanti figli. Se guarirò, voglio guarire tutti i bimbi e disillusi affetti dai tuoi sogni.